quello di Dio mi metta paura di te, di tua madre, di tuo padre. A me non mi interessa nulla. Io dico quello che fai tu a Valentino, capito? Che vai a dirmi a me parolacce, che io sono frocio. Io sono frocio. Ma ricordati, il giorno che ti romperò il culo, tu dici, fa comprovercela a rompermi il culo. Non è che me lo devi dire tu, capito? Vabbè, io ti alzo tutta a calci nel sedere, capito? Tu nemmeno te lo aspetti. Anzi, perché te devo dare i calci? Se c'è una persona, capito? Già la conosce anche Graziano. Se la tenta a prossimi l'anima, assai, capito? Che già mi ha rotto i coglioni Giovanni Modigliani, capito? Adesso ci siamo.